uffici ci hanno manifestato, io te lo metto, ho detto che per niente non ci credo. A me addirittura tre me ne ha inviati perché c'è rifiutosi. Questo qua diciamo che si è ripreso, si è ripreso un po', nel senso che adesso sì, la prima volta lo fa quando la cinghia una volta, adesso non lo stava più facendo, adesso l'ha cominciato a fare. Lo fa la prima volta, entra in protezione, poi ha spenti 5 minuti, lo riaccende e non lo fa più. Ma questo è aspettato un giorno e si è proprio notato, tra l'altro quando è successo non stavo trasmettendo, stavo solo ricevendo, quindi un alimentatore a 45 ampere che è sottoposto a un carico di 2 ampere perché qualsiasi radio in ricezione non succhia più di 1-2 ampere e si è andato in protezione, abbiamo bruciato dei finali, evidentemente qualche problema c'è, è che se mi mettevo nella condizione di spedirglielo mi devo pagare prima la spedizione e poi anche quella loro, quindi mi costava 30 euro, mentre invece così se dovessi andare bene fa che siano 10 euro massimo, ma neanche, poi dopo quello che mi hai detto non ne vale neanche la pena. Ho già dammi 5 minuti che sto finendo di fare una cosa e sono di nuovo qua. Ma comunque il primo che mi hanno spedito, come l'ho attaccato, ha fatto tutto, mi è scoppiato. Come l'ho attaccato la pelle, mi ha dato la colpa a me, perché l'impianto non ho sentito. E mi ha detto, no, non parlare così, perché io nell'impianto ci ho attaccato altri apparecchi, non è mai passato niente. È partito questo qui perché c'era qualche corpo. Guarda, la maggior parte se cerchi nei forum di su internet hanno problemi all'interruttore dell'accensione. Ti lascio un attimo, a dopo. Avanti, Brecco. Buonasera, buon pomeriggio. Sì, ci ascoltiamo. Buonasera. Non è la persona di tua voce, ma che mi conosco lo stesso. Mi senti il microfono a tavola o se ho sempre un microfono a tavola? No, non si sente, non si sente, non pensavo nemmeno che fosse un microfono. Che microfono è? Guarda se aumento appena appena, cosa succede se aumento le cose qua? Va bene anche a 5, va bene, allora lascio così. fare con i segni, è molto forte. La parola si canta di tanto, ma da lontano mi fotte sempre, ma non è per mille, mi fotte, sta aspettando che era girato perché mi si è rotto, non è per mille, e sta aspettando che era girato. Quello del citofono. sempre, sempre, mio nonno, no. Per avvisarlo che circa mi ha trovato una cascola e me la metto in macchina. Ah, andava. Stava provando diverse cose, eccetera, eccetera. Io però avevo fatto come si sentiva meglio, però la cascola è stata più cambiata. Sì, ma siccome io ce l'ho quella che c'era questo microfono, dopo non ho reso per cui noi abbiamo messo quella del microfono in questo e io ho l'altra modificata che c'era qua, quindi domani mattina non c'è il porto microfono, la capsula, e quindi almeno c'è un sistema. Allora io ho chiuso adesso da qua, le attacco in macchina, perché devo scendere. Tanto è il mobilismo. E proviamo questo aereo mio e vediamo un attimino se si riesce a farlo funzionare come si deve. Io sono incidentato. No. Quello che ha fatto in gamba. Ma ho pagato per i soldi, per cui si lasciasse così in fretta, ho un po' più fino da quello trapiano, perché non ha la scocca dura, è di quelli che ha la scocca leggera leggera, capito? La meccanica è buona, l'elettronica è buona, c'è. Questo qua è di materiale fatto tipo con il filo, però questo che c'è io è un variante, non è un aereo tutto, è un variante, è proprio per imparare. È a proprio di giorni che con la stessa. Sì, un paio di giorni. A proprio di giorni. Io devo imparare, quindi adesso mi sono ravvicinato tutti qua tanto, l'aereo l'ho bloccato qua significa. Perché fare previsioni del tempo, perché oggi sarebbe stato un po' e sarebbero sorgi anche le possibilità cazzo di tutta la Sardegna. Ma sono sceso in moto, cazzo, volevo scendere in moto, non ci sono sceso perché avevo detto così, e poi sono andato alla foreccia, non sono spaccato i piedi. La Plata 1 si stava benissimo, proprio benissimo, ero lì verso la destra. Però si stava iniziando a nuvolare, non so perché, anche se la Samona era ancora libera. Ma che è successo di gente? C'era Marma davanti l'allucinante, tutta la macchina accartocciata al sole, questi da una parte anche tu dall'altra. Ma ci sono morti? No, morti no. Ma hanno fatto quella pediolina, non ho visto mandato in diretta, hanno fatto quella pediolina, c'era lo sporco della macchina da una parte, la ruota dall'altra, che si sono sbattuti un furgone con una macchina e poi quest'altro qualche quando non ce l'ha fatta e si sono sbattuti anche questo. Ascolta, sai di qualche sigla aperto di domenica, cioè di sabato adesso, orario continuato? Orario continuato dovrebbe essere via Chiariti. Via Giovanni Pascoli. Ho salvato, ma sai se hanno l'espositore per le cose della casa, tipo mi servono i ponticelli quelle per bloccare il capo al muro. All'ingresso. Pascoli, quello sulla destra andando verso il centro. Beh, destra o sinistra è relativo al senso di marcia. Diciamo quello andando da Ponte Rosello verso via verso l'uscita di via Pascoli te lo trovi a sinistra. Scendendo dal cielo dove risulta? Verso il centro, se lo ritrovi a destra andando verso il centro. Parti dalla Guyana francese, sei in ottima posizione. Bravo, ti ho detto, andando verso il centro, quindi via Pascoli, percorrendola verso il centro, quindi verso il Ponte di Rosello, sulla destra, se non sbaglio è quello, no? Ehi, Agrode, di questo passo ti chiude. Ma con commercio? Che pizza. Ma scendendo dal cielo invece da dove risulta? Alla sinistra. A destra del padre. A sinistra c'era il ladrone. Comunque se scendi da noi mi sicuro che tu mi appetti. Mia madre è grande. Bene, dai, ti ringrazio per le dritte, vado in collegio a Pascoli. Sentiamo stasera se capita, vado a finire questa cosa. Il sabato, ma sei sicura che ce l'abbiano? Beh, non sono socio fondatore, però queste cose della casa, presine, gadget vari, attaccastrofinacci e mille cose ce le hanno praticamente all'ingresso sulla sinistra. Dopodiché se non ci sono, boh, puoi sempre protestare. Non mi hai mandato tu, no, se no devo andare da prima, effettivamente perché non è buono. Dai, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, Grosi. No, ma ci vediamo, e c'è anche Salvatore. A dopo, ciao. Ciao, Grode, ciao. Oh, ma non si possono fare due cose qua in pace, che quello ti chiede dove sono le presine, non è possibile. Io, tutta la mattina che stanno andando avanti e indietro, tutta la mattina, va avanti e indietro, pariata una trottola, una partufola. Andate, massimo idea. Buon pomeriggio a tutti. Quella giornata che mi ha mandato, so che cos'è, lo sto già scaricando, visto che mi ha iscritto. A cosa appartiene? Ma cos'è? Una pece? Cos'è? Ma ha scritto nella prima riga update 1. Ah, ho capito. Sì, la volete un update, ma volevo sapere se è un update di patch o di update proprio del suo programma. Vabbè, lo sto già scaricando. No, una patch non sarebbe stata di 2 giga e 4 quanto l'intero pacchetto di installazione. Ti disinstalla quello precedente addirittura. Allora, facendo installazione nuova si può installare direttamente questo? Sì, no, in effetti è un'installazione nuova. Lui ti trova l'embarcadero già installato e procede da solo a farti la disinstallazione e l'installazione. volta che tu che parte poi il setup dell'installazione, utilizza anche l'altro file che quando tu scompatti il tutto e lì e lanci il primo RAR te lo vedrai, c'è un altro file che serve per i seriali. Prima lanci quello, ti genera un primo seriale, dopodiché in fase di installazione ti fa vedere il seriale che tu avevi caricato e un codice di autorizzazione. Quel codice di autorizzazione te lo segni e lo copi e lo incolli in quest'altro programmino che ti genera a sua volta un file slip di registrazione. E nella schermata stessa del programma di Embarcadero vai a caricare quel file generato e inoltre devi patchare anche l'eseguibile. Fa tutto questo programmino, ci sono quattro pulsantini, non puoi sbagliare. Vabbè, cercherò di concentrarmi. Va bene. L'hai provata quella versione alfa del calcolo dell'antenna? Sì, è carina, carina. Adesso sono alle prese, ho trovato i MyDuck, però non compilano sotto SX. Vabbè, bisogna telefonare e lamentarsi. Eia, cavolo. È ambigua la loro affermazione, perché dicono che per fare Monkey è stato aggiornato. In realtà è vero, tu puoi sviluppare per FireMonkey, però FireMonkey che andresti ad utilizzarlo proprio perché ti andrebbe bene nello sviluppo per SX, sotto XX vedi che tutti quanti gli oggetti MDAC non sono attivi perché non sono supportati. Il bello che stavo anche per acquistare l'aggiornamento, ma non è che ho trovato il file, me lo sono scaricato. Dopo te lo passo. Va bene. Riprendi Gianni. Sì, cosa riprendo? Se stai parlando di cose tecniche, io non sono addentrato in queste cose e non mi trovo bene, ti pulisco. Anche stiamo parlando di pane olive, io. Davvero, già, poi tu dalla tua esperienza puoi dire questo e altro. Io ho esperienza con le donne, con queste cose no. Noi abbiamo esperienza con i maschi. Lo hai ammesso. Per carità. Beh, riprendete voi che sto operando. Però anche chirurgo è diventato. Però avanti una scimmia. Cazzo, ho parlato con questi due distretti. Linguaggi stretti, linguaggi tecnici di quello che stiamo facendo, si chiamano così, se uno si chiama Luigi non lo puoi chiamare Roberto. E attenzione, su questa canaletta Mercosio, e buona serata, niente, abbiamo preso la vettura e così scendiamo direzione Alghero. È prima vedi Alghero, già lo sai dove è. Lo so sì, e io. Incrocio Argentiera, a destra. Cammino a destra. Appagato. E poi lago di Barra, diciamo, dove c'è il segnale turistico marrone, scritto lago di Barra. C'è anche scritto campo aereo mobilismo. Ci sono due frecce, una all'entrata, magari quando così entra. Ah, ci vado ad andare a vedere e a guardare. Ma cos'è, il campo aperto, si può entrare con la macchina o bisogna scendere la macchina e poi andare? No, si può entrare fino al punto con la macchina e poi la macchina la guidi addirittura dal campo. Adesso vedo un po'. Ci volevo portare a Giacomo a vedere lei, però lui non può scendere dalla macchina. Adesso vediamo un po'. No, ma già è vicino al campo, non c'è problema. Si può guardare dalla macchina, bene, sono pazienza. Va bene, dai, continuate pure. Sì, li vedi anche da fuori, ma ci mi raccordo, stai arrivando, li vedi già volare, c'è il rumore. Va a porto di diritti. Ce n'è uno che sembra una zanzara, ma non è scritto il volo, è veloce. Canta come ti vuole, un po' come veloce. E lì è bello andare con un bel generatore al Lago Spetro, con un paio di cittadini di vatte, ne vedi gente piangendo, no? Scherzando. Sì, basta, c'è neanche sulla 27, sulla 27 mega. Ma bisogna che uno lasci la sua frequenza, non so come sia. Bisogna picchiare la frequenza dove trasmettere il trasmettitore. Beh, ci voglio molto. Con il dottore Spettro, la direttiva, vedi dove stanno trasmettendo, lì becchi uno a uno. Ah, ti ho contagiato. Sì, stavamo caricando il modellino di quello, ecco, e così iniziamo a scendere. Ma tata si è portato giù. Le tre macchine, le smontate. Dimmi. Ho detto di smontata, mi fa carpette. No, io lo tocco le ali e basta. Invece l'altro suo è zero. La mia è striscia un vetro, quindi ci sta tranquillamente dietro. Tappata. L'elicottero aveva il piacere di dire, comunque anche lei ha subito. L'elicottero deve finire a guidare. Quelli dei cinesi mi dicono strano, ma questi qui parte un bel veloce, no, se hai paura non ce la fa. Chiamare l'elicottero è più difficile, a parte che quello dei cinesi, quelli piccoli, non vedono se vanno nulla. Ci vogliono gli altri come cinesi, ma è difficile dare l'aereo. Ci ho quello inviato da internet, che erano quelli cinesi. E ti dirò che ci sono quelli anche a Puglia, ne ho preso uno che costava su 46 euro e andava bene, solo che diciamo che il materiale non è dei migliori, si rompe su come ai piccoli impatti, si spacca. Ma sono quelle piccoline che sono gli altri più che funzionano questo, quindi sono così. Se prendevano a quelli per usare gli altri, lo faccio. Sono piccoli, già sono grandetti quelli che ho avuto io piccoli non ho mai avuto, devo dire sempre grandi. Lo so quanto, perché sto dicendo io, ma continuare con i piccolini che sono diritti. Lo so questo. Io ho visto anche il turbo, che con le turbine li facevano volare in pantaloni addirittura quello che c'era vicino, figurati la potenza di aperto. Preso la turbina vuoi dire di qui? Soltanto le turbine sono piccole, ma tutta la mezza è sempre uguale. Già lo so, ma a capo della torre ci ha detto che non poteva farlo volare perché non c'era abbastanza spazio per farlo volare, per della ricorsa. E infatti l'altra volta l'avevano fatti, li avevano fatto vedere solo acceso allo stadio, perché lì ci vuole il posto per farlo volare. Tu quando accedi quella volta che è sempre abbinato con lui è la rete? No, giù la torre. E la sera della torre, giuro, con l'aereo, ha preso il volo e si è sbattuto la rete e ha rovinato un aereo che va a pagare per 2000 euro. Ma non era quell'oggetto, ma non sono acceso del tornado. Era la stessa precisa tornado, vero. Ma quello l'ho acceso lì e basta, ma non lo usava. Perché non lo potevo usare, non lo facevo usare. No, non era quello, ma era lo stesso giorno. Lo stesso giorno che c'era quello lì, è successo anche che si è battuto quello lì con l'aereo. E vabbè, sono cose che possono succedere. Io ho comprato l'elicottero dei carabinieri che nuovissima. Cavolo, ho ordinato un paio paio di giorni fa, purtroppo l'ho trovato attaccato perché mi è arrivato con la scocca di quelle morbide, di quelle moribunde, che quando cadeva, se si ammaccava dietro il dito mezzo la drizzata, ma devo dire, ho usato il video quando sono arrivati gli amici per farlo vedere, questo me l'ha fasciato, la malinconia, mi hanno tenuto la gamba. Quanto te l'avevamo fatto pagare? 130 euro. 130 euro è un giocattolino, non è nulla. Capito? 130 euro per un giocattolo, non è nulla. Che se ti vola, se ti funziona è la fortuna che vola, se no neanche pure. Non è come dici. Questo qua è molto diverso da quello dei cinesi, durava una bella batteria, lo usavo anche 3 giorni e la batteria si stava incaricata, quella cinese dura pochissima. Si eleva in volo con una potenza allucinante, solo che se non riesce a controllarlo è in volo, se cade di colpo e succede questo. E vabbè, comunque vola sempre. Anche bisogna imparare, quello ti stavo dicendo, bisogna imparare con un altro che è più esperto e dopodiché ci può usare da solo. Io già avevo imparato, con quelli dei cinesi ci volavo, li facevo andare, li facevo volare in aria, cose solo che durava troppo con la batteria e non ci avevamo fatto di prenderci questo rapito. Invece questo qua c'era una batteria particolare che dura un bel e già stavo volando con questo qui. Solo che capita sempre che un atterraggio brutto lo fai e che si sbatta di punta, cose che si spacca questo materiale qua è leggerissimo, infatti c'è scritto che sarebbe per volare dentro dei capannoni, non alla Ferrari aperta. Ti sto dicendo che quelli lì non servono a nulla, ti sto dicendo che se tu prendi in mano uno di quelli che hanno loro vero e tu hai fatto volare per appena quello dei cinesi, quelli piccolini, non servono a nulla, te lo spacchi in 3 secondi, te lo spacchi con un rato. Ci sarà un istruttore, no, che ti sente. Io li ho visti su internet come fanno, fanno nei capannoni, lo fanno sedere su una sedia, l'istruttore da dietro ricorregge le manovre se sbaglia. E niente, ho visto che volava bene, il tipo qui alla fine l'ha volato da solo e riusciva a volare da solo. Ci vuole 2 radiocomandi, uno è principiante e l'altro è istruttore, perché se uno sbaglia le manovre potete imparare prima un aereo. Una volta che non ha imparato bene un aereo, allora può provare a usare l'elicottero, ma se no domani. Sì, vabbè, a me la mia passione era l'elicottero, l'aereo mi piace ma non più tanto. L'elicottero mi piace di più. Massimiliano, parlami del tuo quadrimotore. Io ho il Parrot, l'ardrone, quello che si utilizza o con l'iPhone o con l'iPad. Ma quelli sono giocattolini. Sì, domani giocattolini. Quelli derivano dallo studio che hanno fatto per i droni militari americani e vengono usati per come rispia. Dentro monta praticamente una scheda di computer micro e c'è tutti i controlli. Più monta 2 videocamere, una superiore e una inferiore. Non è proprio un gioco, c'è anche un linguaggio di programmazione e gli si può far fare un po' di tutto. È un robot a tutti gli effetti che vola. Guarda, fai una cosa, quando se vuoi ci sentiamo in settimana, la prossima settimana. Ho perso. Stavo dicendo, basta via radio, ci mettiamo d'accordo e vi porto, scendiamo tutti. Conosco, anch'io sono appassionato di aeromodellismo, ma sono due cose completamente diverse tra quello che si fa con l'aeromodellismo e con questo qua. Questo qua è uno strumento vero e proprio, si può utilizzare anche per altri scopi, non solamente per giocare. Io ti sto dicendo, ma quello lì dell'impatto e cosa? Sono sempre le piccoline, non sono un vallo da nulla. Ti sto dicendo, basta che voi scendete il 5 giù, ci mettiamo d'accordo, si scende il 5 e vedete gli aerei. ti ho capito, ma sono due cose diverse. Quello che ho io non è un giocattolino, ha un'apertura di quasi un metro come circonferenza, monta quattro brushler a alta potenza nelle eliche e sono tutte controllate singolarmente dal computer. Ma sono due cose diverse, è come paragonare, che cosa ne so, la barca con la macchina. Se sto dicendo, basta, non c'è problema, basta scendere. Ci sentiamo o è a radio, e dopo il 6 ci mettiamo d'accordo e si scende il 5. E dopo il 6 a Obia c'è una manifestazione e dovrebbero fare solo anche turbine, anche motori a turbo. Io ci scendevo molto spesso a vedervi, perché a me piace molto vedervi. Sono appassionato di quelle cose, figurati, ma ci sto buttando per i soldi, ne avevo visto 4 o 5 di riputti. Precisissimi, questo qui sarebbe il sesto. Bravo, non tenerli fermi i capitali, investili. E poi mi sotto la macchina. Beh, guarda, prima o poi capita, perché io volavo bene, poi capita sempre una mano sbagliata che ti guardi per la prima terra. Guarda, capita sempre, perché anche i migliori fanno risparmio. Immaginati che l'altro sportivo era uno di quelli che aveva esperienza e quindi si è sbattuto la rete la prima. La manifestazione dei soccorso, e c'erano anche gli elicotteri, i canader, c'erano le ambulanze, c'erano i vigili del fuoco che facevano insomma c'erano i volontari, il protettore civile, era un bello spettacolo veramente, questo era stato fatto male un po'. Dalle 3 si ritorna alle 2, un'ora indietro. Sì, io sono fatto già tutte le svegli indietro e buonanotte, così non c'è problema. Io invece avevo intenzione di mettermi la sveglia alle 2. Ma la devi mettere alle 3, ti devi svegliare per ritornare indietro alle 2. No, ma perdi il gusto della sveglia, scusa. Sì, va bene così. Beh, è bello, scusa, per due volte rivivi le due, perché in quel lato le due avvengono per due volte. Non è detto, magari a quello riesco ancora a pesca, se ci vado stasera, non so, se sono stanco non ci vado. Ho fatto dei bei granchietti, ma piccolini, veramente piccoli. Massimiliano, non provo i componenti, mi sono spariti i componenti, i DB Grid, sotto quelle voci li hanno piazzati. Ma con l'aggiornamento tu parli. Ma in quello precedente dove erano? Aspetta un attimino che te lo dico, perché io ancora ho aggiornato che sto scaricando ancora. Ho le prime tre in scaricamento, perché poi ci sono gli altri due file server che non oggi sono chiusi. Aspettate, il DB Grid mi ha detto. Non riesco più a trovarli. No, mi ha scellato il computer, lasciatelo perdere. Aspetta, che è lì il computer dove c'è un rilassamento, no? Ballamento in testa. Suocera, sì, io già. Ah, è andata a control, se dovrebbero essere. Se va, è andata a control, lì dovresti trovare. È bello che non ce l'ho più io. Data control non ce l'ho. E dopo data access, allora c'è Win 3.1, dialogos, data access e data control. No, non me li ha messi. No, non me li ha messi, cavolo. Scusa, ma stai dicendo la cosa? Sai che com'è, di installarlo a mano per installarlo di nuovo. Guarda, io sono arrivato. Ci sentiamo dopo. Aspettate, ciao. Utilizzare praticamente l'ambiente di sviluppo RAD, questo qui, e poi di far girare quel demone in ascolto nella piattaforma target per compilare per quella piattaforma. Mi aspettavo che da questo discorso che tutti i componenti, non dico tutti, ma buona parte dei componenti installati fossero pronti anche per i vari target, così non è. No, perché ci sono alcune cose che sono specifiche solo esclusivamente di Windows. Un esempio come l'altro, quel progettino che abbiamo andato, ho usato l'MDA Child. Su sistemi OS X non esiste, perché è una funzionalità puramente Windows. Lo cambio, passo. Backup registrato. Sì, però io pensavo che la loro idea portasse a risolvere questo genere di organizzazione dei progetti di Windows e per convertirli di volta in volta alla piattaforma di destinazione. Certo, in quel caso una form diciamo figlia puoi sempre avviarla con il lancio di una form separata, il problema lo risolveresti. Pensavo che in quel caso, vedi, la compilazione sotto OS X preventivasse una sorta di invio di apertura di altra form in qualche altra maniera. Comunque, avanti il break, buonasera, Salvatore da questa parte con Massimiliano e Gianni. Attenzione, buon giro, se ascolti il doppio rubo, cambio. Il doppio rubo, buonasera. Da parte mia, coordinate quella della corte, capo. In compagnia di chi sei? Gianni. Sono in compagnia di Massimiliano Armimene e di Salvatore. Uno che è entrato da poco, perché senza voti ma aveva smesso e ha ripreso da poco. E non so per chi tu voglia andare, decidi tu per chi andare, vai. Ora, è Massimiliano, se ascoltate Radio Birillo, passo. Ciao Radio Birillo, ben sentito, Salvatore da questa parte, ti rilancio Massimiliano. Ok, rilanciarmi, sono al tuo piano, se cado mi faccio male. Ben sentito, cordialità da Massimiliano Archimede, a te Radio Birillo. Massimiliano, non l'ascolto Gianni, non so se sta parlando, io sono coordinato. Meno male. Non so se lo ascolto, cap. Sì, stava parlando Massimiliano, dai. Probabilmente non è favorevole quella zona lì. È strano, perché quasi va bene. Massimiliano riprova a parlare, a parlare piano sottovuoto. Che sto sbagliando, fra poco cingo io il microfono. Però seguite che sto smanettando col computer. E cosa stai rullando, stai no, sto facendo un viaggio di Siena, vado a corte a Polo Pablo. Comunque l'ho sentito adesso che sono arrivato al centro della corte, forse sì che mi abbia accompagnato qualche filo di telefono e l'ho sentito poco a poco. Buonasera comunque Massimiliano, capo. Buonasera, aspetta un attimino, va, mi faccio sentire per un po'. Allora, vediamo un po', così e così. Allora, aspetta un attimino e dovrei risollevare un attimino questo. Prova, 1, 2, 3, se mi dovessi sentire. Mi hai sentito? Papà Roger, adesso ti ascolto, tutto Roger. Ciao, ah, quindi stai trabarcato anche stasera, Bobo. Sì, la sto portando un viaggio di Siena, la zona di Palmaro, la alla corte, e via. Fino tuo? No, di un altro. Ah, cavolo, un viaggio che stai facendo, là. Ciao, Roger. Come ascolti? sia sempre proposta. Quei tempi che corriamo è difficile anche che prosegua il lavoro, è un casino. Ma c'è poco movimento. Pensione per lo scuro invece di fare andare gli altri a 57 anni. Le cose ci vuoi fare, purtroppo. Ma se uno c'ha 40 anni in contributi e quelli che vanno in pensione vanno dopo anche a lavorare, prendono lavoro a quelli che hanno 20 anni, purtroppo è così. Se facciamo un giro di conti ci sono più pensionati che lavorano che ragazzi che stanno iniziando, capito? Ma perché lo fanno? Perché le pensioni non passano per campare, purtroppo. Come fa uno con 400 euro a campare? Ma purtroppo la pensione te la danno in base di quello che pensate. Cosa ci vogliamo fare? Bisogna ridurre dei costi. Allora, tutta una cosa ti dà l'altra. Tanto che ti vedi se vuoi sempre che trovate, ma avanti, lasciami via. Perciò già mi devi comprare gli elicotteri che sono dei vizi e comincio a mettere da parte. E vabbè, ma io mi dico che sei tu malato, ti dico che ti do un fumo, non bevo. Non me ne va la donna, almeno gli elicotteri me li posso comprare. Ragazzi, è compagnia. Quando ti piace una cosa salvate così, cioè, ti piace, ti piace. Io anche con Luca sono andato a volare con gli incontri. È bello, però con i cinesi dura poco la batteria. E ve l'ho detto che non dovete prendere roba cinese, e voi insistete. No, non bisogna manco entrarci dai cinesi, non avete saputo la storia di quella che di quello che è andato con la moglie a comprare. E poi gli è venuto in mente che doveva prendersi le sigarette, ha detto la moglie, vengo subito, sono a prendere le sigarette e torno subito, stavano per chiudere i cinesi. Era già quasi un anno di chiusura. Ha detto, ma te indietro ha trovato il cinese credo, ma se no mi ha detto, devo entrare, se no è chiuso, cioè, ma c'è mia moglie, no, no, qui non c'è nessuno. Qui non c'è nessuno, questo qui ha preso, alla fine ha detto guarda che mia moglie è qua, non se ne sarebbe potuto andare da sola, perché non c'è la macchina, ce l'ho io la macchina, quindi non è possibile. Alla fine ha chiamato i carabinieri, l'ha trovata legata, lì sotto del bagagliaio, legata, arrasata e tutte abbavagliate. Bravo, bene, bene, complimenti. Qua sassa di senza andare lontano, lontano. È che non si possono dire per radio certe cose, è meglio che mi stia zitto. Ce l'abbiamo spiegato in figura. Io vado nelle bianche, si conosce, no? Questa sì. Dai, riprendi tu già e fai girare, che sto cercando di fare una cosa. La mia moglie e mia figlia devono andarci più da solo. Se ci sono io, che non so che non fa andare. Avanti, Bobo. Cosa c'è già, cosa c'è? Ah, i pesci pesci, come stai? Bene. E a Peppe, non ci hai visto là? Ma chi l'ho sentito? Sono già entrato la sera, se vuoi vuole piazzarla. Solo che ci vuole anche lo chimico, io la verità non so cosa vuol fare a piazzarla, perché a fare il foro e trasmetterci i tasselli così normali, con Flattino lo sai che non regge. Ma io ho tasselli di O2, ma non sono chimici, se voi posso fare la mia parte. È inutile, se non ci metti il tassello chimico in una forattina, non va bene, si spacca, quando vai a friggere si spacca. E prendi il tassello, perché si rovina, è già successo una volta, lui stringendo, gli si è aperto tutto il coso, gli è rimasto in mano. E ha fatto il buco più largo. È cementato, non fa, metterci il cemento, poi filarlo così e stringere. Poi non va bene, no? Metterci il cemento come dici tu, avrebbe messo di quel cemento a coso a rapido, al limite. Ma non va, non va, non fa bene, no? Boh. Ma sa comprare questi tasselli chimici? Lo sa solo, di quel momento, cosa gli faccio? Tassello chimico mi faccio io. Neanche quello è vero. Se da solo si può fare casino, io dove posso aiutare? Tassene normali ce li ho, chimici proprio no? Aspetta il 15 novembre, ci vuole poco, ci sono 15 giorni, due settimane aspetta e poi appena ritiro i soldi Andiamo dopo come pilota cielo chimico, la tela è pronta. Non li ho vicino nemmeno io, chimici, li ho vicino normale anch'io. Ma tu non le fai l'attino? Sì, la cabina dell'ascensore, non è quella. No. È puro. E poi gli ho fatti i punti più piccoli, una misura più piccola, l'ho incastrato con martello e poi ho stretto, non esce più tutta a mano. E vabbè, adesso vediamo come può fare lui domani mattina. Se vuole tentare così, piace così, seccare il palo, l'antenna, non ci posso fare niente, il motivo si rifà. La fretta è un brutto consiglio. No, per farlo così meglio non farlo. Una volta che lo fa lo fa bene, una volta solo non ci si pensa più. Bello vulcanizzato, tutto fatto bene. E appunto per quello, non l'ho fatto io qui, perché no, cioè fa l'attino, figurati se lo faccio a lui. Lo faccio fuori e poi mi trovo il buco più grande di prima. No. Si fa il foro giusto, ti mette quello che si mette all'interno, si aspetta 5 minuti e poi lui è fatto, non si muove più. Una volta che lo fai, si fa come si deve, se non regge così bisogna mettere di quelli chimici, buonanotte. Anche perché si sfarina le cose, il cantone così si sfarina. Non è cantone, è forattino quello che c'ha lui. Magari è che c'ha il conto. Scusate, ciao Pompo. No, Salvatore, mi hai sentito. Ciao carissimo. Scusate, solo una comunicazione di servizio. Massimiliati, puoi spostare un attimo sul doppio zero che devo farti notare una cosa? Lasciamo fare in assalto qua. Similiano. Doppio zero. Avete visto? Doppio zero, canale zero. Assimiliano si è dormito. Ho paura. Vabbè, io continuo a fare i miei esperimenti. Dai, vi ascolto. Riprendi, ho già. A me lavoro mi richiama, carissimo. Voi ci state mandronando stasera, io invece vado a lavorare. Poi se ti dico perché sto facendo tutto quanto visto giro, guarda. Carità, tu io. Già passo, sono 2 ore, ma 2 ore proprio sudate. Devo stare per un minuto, già mai non mi piace. Non mi piace. Sono abituato a uscire col tram, col mezzo, al coso, stare in negozio è un controsenso. E almeno ti rilassi. E c'è ancora il vero, perché metti la roba tranquillamente il coso, però poi non ce la fai a fare tutto, se non fai in fretta non riesci a sistemare un bene di scaffali, perché ci sono le pedane da salire, non è che ti rilassato, se ci vogliono pedane tranquillamente. E vabbè, meglio stare in viaggio, cioè, attenditi, meno con le pedane te le porti su e te le fai piano piano. Ormai sono già una settimana, ma questo è quello che volevo dire, perché io sono abituato alla libertà, organizzarmi da voi, stare nei negozi, stare fermo lì, i clienti che ti assistono, invece conosci commento, ti organizzo da solo via. Una lì, ti saluto che mi devo preparare, poi magari ci sentiamo quando sono in basso mobile. Bene. Non sbide. D'accordo. Ciao già, io già vi continuo ad ascoltare. Ciao, Salvatore. Avanti, mica c'è. Popo. Ciao, Popo. Scusi, Grillo, cambia. Oh, non ascoltami. Sì, io ti ascolto, no, è ritratto un attimo, dimmi. Buonasera. Mi dico saluto libero ascoltato. Gianni, ora ci siamo, alle prossime cappe. Ciao Gianni, alle prossime.